contattalo già, senti un po' chi è, chi non è. Se ti dice io sono di Cagliari, non c'è problema, vengo a Cagliari e mostro il vero funzionante. No, io credo che sia di Sassari, perché sull'occasione trova gente di Cagliari difficile, molto difficile. Sul baratto si trova gente di Cagliari di Sassari, sull'occasione difficilmente. Ascolta, non ho tirato un telefono? Mandami un messaggino, però se aspettare qui si sullega, ti mandano un messaggino lì. Ti mando il numero del telefono del tipo, ok? Abbiamo un pochettino. Ma boh, ho poca fiducia adesso, non so, in tutti. Se vedo questo stocco del compratore, se ne lavo a qualcuno. Io chiamo a me Salvatore. E ti videochiamo, bello bello. Ah, è caro. Beh, già, tu non ci crederai, ma c'ho la paranoia, Ciao Natalì, c'ho la paranoia, già presento io lo rimedio, capito? E se sono incappato davvero nella stessa persona, io mi sparo, Io speriamo di no. Ok, se non mi sa, quando viene ti faccio vedere dove abbia fatto il tipo, la località, dove abbiamo fatto il pagamento e dove è stato respinto tutto. E così, controlli tra questa località. Natalì, ti faccio fare un affarone. Guarda, due Galaxy al prezzo di uno. A lui, un presidente. No, e guardi, ci metto anche due microfoni e anche due cavi di alimentazione. Cosa gli possiamo dare già in più? Grazie a te, la ruggine. Stiamo parlando dei 40 metri, e quindi devi calcolare i 7050 che sono quindi 7050 MHz, quanto vanno i bracci? Ma io ho fatto un calcolo, dovrebbe essere, se calcolo sulla mezza lambda, dovrebbe essere 22.153, se invece sull'onda completa 44.30, se ho fatto bene i calcoli. Diviso 2. Cosa deve fare? Ma te lo dico io. Allora, deve fare 300.000 diviso 7.5 e ti dà 40, se sono 40 metri, no? Lo dividi per 2 e fai la mezz'onda quant'è. Capito? Se vuoi sapere la lunghezza del braccio, dividerlo per 4, 40, ti dice la lunghezza per ogni braccio. Capito? Deve prima calcolare la frequenza, poi quando ti è calcolato la frequenza devi calcolarti quanto l'antenna vuole lunga per quella frequenza. Scusa, con i zendi si devono vedere i tre. Andiamo in freeze, velocità, dai, sentiamo dopo. Anche io, a dopo, ciao a tutti. Ciao, ciao, fermi con il circuito, amica. Fai, fai, io so che ho, okay, non c'è problema. No, 10,8, va, 10,8. Capito? Cioè, quindi ogni braccio deve essere 10,8. Ehi. Se fa un HF, e se fosse un HF qui sarebbe 22 allora. Ma non può essere un dipolo, scusa, Ora c'è che sia una verticale, di cosa sta parlando? No, no, dipolo, fa lì, se lui calcola il braccio, un dipolo, lungo mezzo lambda, e questo l'altro più o meno si chiama lambda cos'era. Quindi, e poi c'è la formula, applica questa formula, metri, cioè il metri che devo calcolare, si determinano da questa, quella, il numero fisso che sarebbe 144 diviso in megahertz, quindi andiamo a fare 144 diviso in megahertz, e in questo caso sono 7.10. Ma lo stesso 144 non mi corrisponde a me. Perché un lambda potrebbe essere anche un braccio verticale, non è che ti sta chiedendo di calcolare un dipolo, ti sta chiedendo di calcolare un braccio di 144, quindi potrebbe essere anche un braccio verticale. No, grazie, proprio specificato, dipolo, lungo mezza lambda. Allora, dimmi la domanda, com'è? Dimmi la domanda. Allora, calcola il braccio che ci vuole per un dipolo, lungo mezza lambda. Applica la formula metri uguale 144 diviso megahertz. Oh, lì c'è qualche domanda a tranello, È quello che non riesco a capirla, Oca. Però aspetta, io gli sto dicendo, lui dice a Natalino, anche a te, se prendiamo 144, dividiamo per il megahertz, in questo caso 7.10, ci dà 20 metri, 22 metri mi dà, ed è giusto allora. Aspetta un attimo. No, ma 22 metri corrispondono ai 40 come braccio. Vabbè, io sto calcolando sui 40, quindi 40 metri sono 7.10, quanto mi hai detto tu, Ocla. E certo, i 40 metri vanno da 7.000 a 7.100 MHz, quindi il calcolo si fa sempre 7.050, perché la frequenza devi calcolare su 7.050, e i bracci ti tornano, ma questo 144 perché te lo sta chiedendo? Perché sono i metri. Allora, 48 va, un'onda intera. Allora, diviso 2, aspetta un attimo. 24. 24, vabbè, quindi ci siamo. Allora è giusto, 144 metri proprio, 24 deve essere capito, mezz'onda, capito, se devi fare, il dipolo è 24 la lunghezza totale di mezz'onda, però dopo per si deve sapere la lunghezza del braccio, cioè la lunghezza del braccio è già 24 per braccio è, capito, tu sei 48 la lunghezza totale, capito, però se lo vuoi fare mezz'onda proprio devi dividere per 4, ti dà la lunghezza del braccio, capito là, lo devi fare 24 diviso 2, aspetta un attimo, e ti dico un braccio quanto lo offro. Ma di un depolo dei 40 metri, ma cosa siete dicendo? Non è dei 40 metri, è dei 144. Ah, dei 144, ma lui me l'ha chiesto dei 40 metri, forse se lo mettono nei corpi, perché 48? Sì, per i 144 sì, è diviso 2, 24 diviso 2. È troppo comodo, fra con la calcolatrice, in chili, 11, 24, questa calcolatrice si va, se ne ingottimi. Anche che danno per me calcolatrice. Scusa, 24 diviso 2 sono 12. 12 per braccio vuole, capito, non solo per i 144, ma l'onda è 12 per braccio. Anche a me mi dà 12, capito? Buonasera comunque. Buonasera, dai, io vado a mangiare che è già tardi. Comunque, fate i conti, fate, io già poi faccio il barone. Per 7.50. Cosa attento a 7.50? È un'antenna per 144, per 2 metri. Per braccio, capito? Se vi abituate a parlare uno alla volta e con calma forse riusciamo a capirci, perché se parlate in 10, tu, Franco, lui, parlate uno alla volta. Non mi ritorna, perché nel risultato c'è, cioè, un esempio sui 28 MHz, no? Cioè 28, e c'è scritto che vuole il braccio da 5.339, allora è UHF. No, la lunghezza del braccio vuole a 5 metri e 339. Per braccio 5.315. No, ma lì c'è qualche domanda a tranello, perché è possibile, prima c'è al calcolo dei 40 metri, ti dà la frequenza 7.050 e poi ti chiede di calcolarlo nei 144. No, non abbiamo capito la domanda, no. C'è qualcosa che non va. Non abbiamo capito la domanda qua, se no è sbagliato, no, non è così. Se mi dà questi così. Ma se mi dà questi 7.050, sì. Natali, la frequenza dei 40 metri, la frequenza dei 40 metri è da 7.000 a 7.100. Il calcolo si fa a 7.050 perché i 100 vanno messi come calcolo, quindi si diviso 2, quindi va a 7.050, ha fatto il calcolo, e a lui le dà la risposta giusta perché sono 22 metri rotti. I 144 cosa c'entrano? Guarda che sta facendo delle cavolate enormi, i 144 non c'entrano niente, bisogna vedere se lui gli dice 7.50, bisogna vedere come la domanda, che dati gli dà. Ma infatti il calcolo si fa a 7.50, questi 144 non ci sono usciti, se non fatto. E lui dice, di usare questa formula, dice, usa la seguente formula, metri uguale 144 diviso il megahertz che devi applicare, cioè megahertz vuol dire che se vuoi fare il dipolo sui 40 metri devo usare 7, volti, se vuoi fare sui 80 metri devi usare 3,7, mi sembra che sia, se su 160 eccetera eccetera, aspetto che si riferisca a quello metri. Usando la seguente formula, metro uguale 144 diviso megahertz. Allora, non minuti, sono le 28. Bisogna vedere come è impostata la domanda. Se avete fatto un macello. A me basta di millimetri, è una frequenza di vostri calcoli, sia di una che dell'altra. Vabbè, domani la avremo a ragionare e me la fai vedere a me la situazione. Mentre. E la fatto le dico io come si fa il calcolo. Dopo mezz'ora se ne gioco di due, mi dico vai e non andare l'altra maniera, e tutti rimanere di rimbossi. Molto semplice, ti ha detto di calcolare 140 per, diviso la frequenza, se la frequenza è 7000 quello che è, lo devi dividere per 140, se ti ha detto 140 diviso la frequenza, devi fare 140 diviso la frequenza che ti ha detto, tutto lì, non è che c'era molto da capire, no? Penso che sia stato chiaro, te l'ho letto tre volte. Calcolare la mezza lambda del 140 diviso la frequenza. Se la frequenza è 8, la devi dividere per 140. È un bel semplice, eh? Se me la già quattro c'è in mano, ti devo essere 5 secondi. Ecco, ma la frequenza non me la detta, ma adesso i metri, ma la frequenza non me la detta. Capito? Vuol dire che quello lì è un segreto suo. Per questi pure per me, là. Maccio. Mario. Veia. Ma dove sei a Luca adesso? Boh, dov'è? L'ho capito bene. Sagitto il trattato BTT e torna. Ma la vetta la vecchia che vai? Sì, io ti sento, vieni avanti. L'antenna al suo posto, ma l'hai messa molto meglio. Sì, guarda, quasi Santiago Nove. La radio è bella, chiara, forte, pulita, i picchi sono positivi. Meglio di così non si può. Se dovessi andare in alto, sopra il tetto, quella, funziona quanto la manto, ma la manto va che c'ho io, guarda, né più né meno. Bisogna piazzarla piano piano, cercare di trovare l'inclinazione, la gradazione giusta. Vabbè, dai, riprendete queste due, Luca, io sto finendo il scenario e poi vengo in radio, dai, sentiamo dopo, riprendi Luca. Due cicchiettate a cosa dalla pompa là e via e ha messo subito il morto. Beh, se uno non lo sa fare sì, sono tutti uguali, la pompa se rimane a secco la deve sapere spurgare. Vabbè, il ruolo è comodo per spurgargli l'aria e di togliergli c'è una vite sopra, e tu sei quella lì, dai due giri di chiave e la pompa ti fa uscire l'aria e fino al momento che arriva il gasolio. Una volta che arriva il gasolio ti rimetti la vite e dai due cicchettate lì proprio da vedere cosa degli iniettori e mette molto subito. Spiegato un amico, mi ha detto guarda che quando ti dovesse capitare, perché difficilmente capita, perché io parto sempre col pieno a bocca, però oggi ho fatto un giro più grande del solito e in più c'era molto vento, che è da quel vento che non ci fa camminare la macchina, capito? Sfrutti di più il motore, sfruttando di più il motore, consumi di più e niente. Pensa che io ho un pieno che sono all'incirca 80 euro di gasolio, più ne ho messo altri 20 io di tasca mia, con 100 euro di gasolio non sono arrivato a Sassari. Quando trovi queste burrasche così succede, e volontariamente, ma succede, ma io ne ho messo 20 euro perché ero sicuro di arrivarci, invece sono arrivato alle gallerie e il mio coso, la colpa è anche mia, perché anziché stare a chiacchierare con Luca e con Claudio e con Franco dovevo guardare ogni tanto il tachimetro e invece me ne ero proprio dimenticato, stavo chiacchierando con voi. Non è colpa di nessuno, è solo colpa mia che sono adesso dovuto. Comunque a te anche a scuola di sotto si sentiva a livello QRM, cioè sentivo mormorare, ma non ci capivo una mazza. Invece Luca arrivava forte, e dal birro di limone se l'ascoltavo a Luca, E K. No, a Codio addirittura lo sentivo da Monorva, dall'altura di Monorva, come invece a tappigliare la discesa. Per Monorva sentivo a Claudio, però poi quando sono arrivato nella valle dove c'è l'incrocio per Monorva, lì l'avevo perso, poi l'ho ripigliato un po' più avanti e ogni tanto mi spariva, diciamo che ci sono anche lì le zone negative, però lì su diciamo al sopramonte di Monorva lo ascoltavo benissimo. E poi ho iniziato a sentire a Franco, a Luca, e a te non ti sentivo. Io non lo so, a Claudio lo sentivo che stava parlando con qualcuno, però non capivo con chi fosse. Poi, man mano che mi avvicinavo, che trovavo quei punti un po' favorevoli, capivo che c'era, ho capito che c'era Franco e che c'era Luca. Il tuo giocato non funziona bene. Sto contento per te, dai. Almeno quel problema te l'hai risolto. Scappa di positivo, no, almeno per parlare con noi. Se non è che ti interessa più parlare con la zona Porto Torres e Sentina, quella zona lì, altrimenti, boh, vedi tu. Io ti ascolto, Non, per me non è un problema. In considerazione, perché se ci affacciamo alla finestra, allunghiamo la mano e ci diamo la mano, capito? Tutto lì. Come me l'ha vegliato Gianluca, a Manicomio dice che a Porto Torres non l'ascoltano, non ci credo proprio, è qualcuno che gli aveva fatto qualche burla, perché io ti ripeto, lo sentivo da Coso, da Siligo, come ho fatto la salita di Siligo, lo sentivo bene a Luca. Credo proprio, guarda, perché io sono sicuro che se andiamo a Porto Torres in macchina, metto la magnetica sulla cappotta e a lui sono sicuro che l'ascolto. Sì, questo è un punto abbastanza, alto, cioè per portatore è tutto libero. Allora, Porta Torres, lui sale sul tetto e lo vede, e non c'è da sbagliare. Se sale sul tetto, o cosa non lo vede, Sirico non lo vede, davvero. E così che se lui arrivava a Sirico, io mi faccio quel paragone lì, che c'è tutto il promontorio dove abita Claudio, che Claudio è in alto. Deve scavalcare tutto quello lì, tutto il sopramonte di coso, e poi per arrivare lì a Sirico, perché già quando arrivi a coso sei già in alto, capito? E così che non dovrebbe arrivare, o se arriva piccolino piccolino a livello di QRM, invece lo sentivo, capivo quello che diceva. Attaccato alla cosa del camion, non era neanche attaccata alla cappotta perché c'avevo i tubi sopra e non la potevo mettere. Io l'ho attaccata al paracassone, cioè al paragabina, quella sponda che c'è alta dietro la gabina. Ho pigliato e l'ho attaccata lì, messa di traverso, però con una magnetica lo ascoltavo ugualmente. E non è che avessi avuto tutta quanta questa grande cosa. Poi Claudio mi ascoltava benissimo, così che... Cosa c'è? Davvero? Chi fa Claudio? Connette sempre un po' più tardi dopo che beve cena e invece si fa una sbirciatina. Thank you. Sono radio che... Però mi sembra che che sono prezzi esagerati per essere comprati da RB, perché a quel punto lì, anziché 500 ne metto 700.000 lire che si trovano, che sarebbe 850 euro, solo la radio io sto parlando, si trova anche nei gusti, ho usato la Chievo, Radio Nuova, perché state parlando? No, senti. Sì, ma che radio sono? Non ho capito. Cioè, 180, 140, 140. Sì, ma non capisco cosa sono. Chilometri, biciclette. Non lo so, cosa sono? Nuove radio, nuove marche. 140, 140, cos'è? Lo va a mangiare. Paracchini nuovi. Paracchini nuovi. Per telefono di queste cose che fate meglio. Sentiamo più tardi. Belline da vedere, non per utilizzarle, ma per vederle farebbero una bella vetrina. E poi a fianco metterci la vetrina delle macchine che sto facendo queste cose. Sto facendo tre macchine, sto facendo la Ferrari Formula 1, la BMW, l'M3 da competizione. E poi sto facendo la 156 sempre da competizione. Bello, no, in una vetrina mettere tutte le macchine, nell'altra vetrina mettere tutti gli apparati. Che non è bello. Per un po' di forte è bello, sì, io adesso sto costruendo questo qui piano piano, ne sto facendo i ripiani, le cose, no? Poi quando è il momento, come i ripiani, c'è qualche buco che non mi piace, la verità, che cosa faccio? Li metto un pochetto di pittura e poi gli metto il vetro sopra, e sopra ci metto tutti gli apparati. E vengono il mio figlio, ho fatto dei piani, ho ricavato e si sta mettendo la Ferrari in collezione. E poi sotto, perché sono più grandi che si vedono meglio, ci metto quelle tre macchine da competizione quando saranno costruite. Quando mi ritiro gli altri microfoni che Pomponio mi sta mettendo tutti gli spinotti nuovi, perché lui quando fa le operazioni perdeva sempre le vetine, sono tutti quanti senza vetine, adesso gli ho portati per mettermi tutti gli spinotti nuovi e così li metto ognuno al posto suo e poi chiudo la vetrina. Quando sarà finito questo mobile, quello ritirato a lucido, che vi faccio diventare nuovo, Tutti questi due sportelli che non mi piacciono niente, mettere quegli sportelli in retro, fatti bene, metto una bella cerviera e via. Caricare Luca. Finalmente si sento bene, buonasera a tutti. Ciao Gianni, ben rientrato. Ciao Mario, ciao. Cosa hai fatto Luca? Stai vanno bene tutti. Thank you. chiedevo già qualche agenzia che la trovi magari. Sì, ma anche in campagna lì, non si crede, io una volta stavo facendo una seminata a casa di amici, erano tutti in greffa, mangiando, ridendo, scherzando, e dalla campagna vicino si sente, ma non la bacio di Sinosi lì o no? E infatti, sai come hai detto, ah, continuate a fregarsi, perché io sono in campagna, se voglio, vado a fare la cosa in campagna, ma non rompo i capelli, se butto, e mi è capitato che si imbecille. Vabbè, era tardi, era l'una e mezza, così, ma la campagna non è che era vicino vicino, no, è che era un bel po' di distanza, eppure, vabbè, abbiamo fatto con la città, ma sai come si fanno le deminate e cose così. Ma c'è gente che non tollera niente, c'è molta gente che non tollera proprio nulla, ma come si fanno in casa tua? Penso che qua vicino ha chiesto a tutto il condominio di mettere la firma per farmi togliere l'antenna, perché io parlo, lo disturbo parlando, non è che lo disturbo al televisore o cosa, perché parlo. Sì, c'è una fila di forastini, non è che ci sia nulla. Ma in casa mia sono libero di parlare quanto mi pare, se sto parlando con mia moglie allora mi fai segno di parlare. Sì, sì, ho vinto io, hanno cambiato l'antenna. E da quando hanno cambiato l'antenna non ne faccio più. Ma non è negativo. Non era la mia antenna, era quella del televisore. Lo sai che come ha smollato col bullone a farfalla, ne farà dell'antenna a pizzi. Se non avessi visto non ci avrei più visto. C'è qua frasi che hai. Fradi, c'è scena a 16 anni. Quindi avevo anche la testa, no? No, no, ma dopo che hanno cambiato quello non c'è più stato problema di nulla. Limitano le cose degli altri, capito? Avanti Mario. Mario. Boh, non risponde Mario, deve essere che sta facendo qualche cosa. E quindi solo tu Mario ce la va. Mario, Fabio, raccontare. Luca può essere la patroncata. Oh, io stavo ridendo fino adesso, mi stavo guardando il televisore che c'era Natale sul Nilo, roba del genere, guarda, tre fatti da realizzare. Attenzione Luca, tu dire, che stanno mandando le lettere, non ti fidare mai di fare versamenti internazionali, roba del genere, perché stanno fregando un bel di gente. Sì, quindi tutti lì di là praticamente, ti mandano bomba a scadenza come hanno fatto con me. Questa Union, non so se è Union International. Non è sul forum di eBay, metti forum di eBay e ti dici per la fregazione che hanno fatto. Ma tu lo stai mettendo? Dice. Intanto dovremmo essere prima dei 4.50 di Emanuele, Questo si scrive più, non sarebbe già ordinato. Sì, mi ha dato un manuale, c'è una barattina, tutta la roba. Questo è bello per una sola linea, però ho dovuto prendere l'ordine. Ma non è una cosa, capito? Sì, il 25 ampere, quello da 60 euro. Ancora migliore di dove lui come estetica è bello, io ho tutta la forma dell'alimentatore quadrata, alta, con strumenti più grandi, capito? Belli, evidenti proprio, molto molto ampero. Ma perché non prendi quello della Nice come quelli che ho io, Luca? Solo che costano un bel di soldi perché lui fa la Daiwa. E quelli sono belli. Quello della Nissi devi prendere, quelli che ho io costano un po' di più però sono buoni, capito? Tipo quella c'ha Gianni, così grandi, così belli, robusti, chi sono fanno da tre. Io quello della Risi li ho pagati da IRAE 110 euro l'uno, però sono 30 ampere e ti dico che sono la fine del mondo, strumenti tutti e due illuminati, hanno la protezione, attacca sin di sigari, attacco avanti e dietro, la regolazione fino a 15 volt, sono esterni, li fa la Daiwa, sono marcati Risi ma sono della Daiwa, capito? In una promozione che hanno fatto assieme, sono precisi e identici. Stessa costruzione, e sono buoni veramente, io ne ho quattro di quelli, figurati, non li giambo più, continuo a comprare sempre quelli. Buonasera a tutti comunque, dai, avanti già. Buonasera. Poi sto guardando una sala sull'indo, mi sto piacendo le risate, non so se tu stai guardando, ma è una scena. No, quello lo facciamo molto in India, non sul Nilo. In India non lo so dire, sto sbagliando io. Sto guardando, sì, infatti non ascolto. Carità, questo è quello, tutti per romano che cantava quella canzone e poi si è incendiato il sedere. Ma è giusto quello che ci ho gare, che è gaming. Carità, tutti quelli. Io sono bambini, mi fanno ridere, io a Natale con mia moglie ci andavo sempre a vedere, mi sono passato una giornata di risate. Bei film sono, Edizio. No, è bello poi, ma siamo molti mutande nella sala, siamo da noi, Maria, siamo da di fantuzzi. C'è la mia macchina alla schiena, ma... mi ha risato. Siamo da di fantuzzi, ma... Oh, tu ce l'hai macchina fissa fino alla schiena, mutando. La mudanza. Allora io già portavo il lipici la... Dopo questo portavo per il lipici. Ah, io solo quelli, non li sopporto altri. Solo quelli. Capito? Solo quelli e boh. Comunque niente male, mi abito la vita della Giauna. Ma se no, sono le sue. Complimenti a Issa. Bella veramente. È bella storia, bella. Un bel rispetto. Si è sbagliato, Bulli, e gli ha dato la mano sopra. le poppe. La poppa al vento, ho il vento in poppa. Ma meccanico, quadrato non c'è. Ah, non l'ho sentito, poco fa c'era. Grazie. A chi sei, Bobo? Grazie, sono. Ehi, ho fatto il microfono. L'ho tutto pulito dentro, però più morbido di così non si può fare. Perché c'è un sistema di molla proprio che è dura, capito? Non si può morbidire. Però adesso è più morbido di prima. Già va bene. No, stavo pensando a metterci un pulsantino normale, eliminare quella roba e mettere un pulsantino, quelli normali, lì per altri utilizzi. Ah, che brutto, roba, c'è il lock. Ma guarda gli ora, vai, già, che c'è il microfono, roba, guarda gli ora, vai. Sì, non lo intendo, si sente la roba. Ora che ci troppo i valigioni che va, allora. Tanto le mie. Forse come era fermo, prima sta a mettere un po' il CRC. E l'ho tutto pulito col CRC, l'ho soffiato con la bomboletta dell'aria. E poi gli ho dato il prodotto quello per le parti elettriche. No, è più morbido adesso. Il PPT è molto più morbido, capito? Si può calcare bene. Poi non c'è bisogno di calcarlo fino a fondo, vabbè, ho provato. La portata già c'è, è abbastanza morbida. È il lock che pare una dagliura. Non lo puoi provare la trasmissione adesso? Allora, non so su che apparato va, su come si chiama? Su quello VHS non va, ma sono riportato. A serve se va col baracchino. Io lo utilizzavo sul Midland e sul cosa? C'ha la connessione con il Midland. Cambio baracchino, aspetta. Però Claudio, devi diminuire il mic gain perché al massimo non funziona, perché c'ha l'impedenza di 1000 ohm, non da 500. Basta cambiare la capsula, sai? Sì, infatti quello lì, l'idea mia è quello lì, modificarla e metterci una capsula di quelle ad alta fedeltà, di qualità. Io sono convinto che con l'affare, se me la prendo, lo faccio diventare un microfono serio. Sì, se ti do quella dell'M300 la capsula esce la bomba. Se la becco quella dell'M300 non becco la bomba. E Claudio sta provando. Non sto uscendo del radio qua. Se sei tu, non sto uscendo del radio. Me lo faceva anche a me, diminuisci il mic gain, non lo mettere al massimo, Claudio. Che se varia un cuscio, te varia a mettere un cane di massimo 12, no, per batteria dentro. Che cacchia, non me ne sono ricordato, scusa. Aspettiamo, di bruci. Non è gana, allora. Vabbè, ma sento senza batteria io. Ma no, lo porterà poco, siccome l'ho conservato quel microfono. Avanti, giusto? C'è anche Mario. Avanti, che posto? Buonasera, ben rientrati tutti. Sperando che siate scherzati. Sassi, sì. Noi siamo sassi, Mario. Oh, yeah. Andare. È che non si fa, la vita di qualche cosa non si risolviamo. Vabbè, bisogna avere pazienza. Già. Mai perdere la speranza. Vedrai che tutto si risolve per il meglio. Gappa. No, io mi. Adesso non avevo qualche voglia di mangiare, sono a pizza. Ah, pizza, ma non mi sto guardando manzana di reggi, per carità. La metà manza, mi sono messo con i piedi nella culla. Adesso mi faccio quattro chiacchiere con voi, perché se ne dormo subito, domani mangiare finisce a dare quattro. Che fai, infatti? No, io già non ne ho di quei problemi. Mi vedo sapere se sono una sveglia, se non sono la sveglia mi vedo io, se allora lì sono già aperto. Più o meno come me. Io sto dentro al centro della sveglia. Io sono che dovevo partire alle 6 e alle 4 e mezzo ero già sveglio. Sì, ora. E vabbè, è tempo per cambiarti, alzarti le cose e per partire, quindi devo già fare tranquillo, così non è fatto tutto in fretta mai. No, mi sono alzato, mi sono fatto la pappola, davvero, mi sono lavato, mi sono cambiato e sono partito, davvero, come sono arrivato là però ce l'ho vento. Sì, già l'ha detto anche Paoletto che c'era un bel vento, ma vento però. E sto dicendo che io ho messo il telone sopra, no? Però era di tutti, non so se lo riconosci, perché avendo anche questo agrario, ovviamente c'è per questo altissimo, ma è uno di quelli lì, per salvare le scatole dalla pioggia, no? Perché se no le scatole in cartone con la pioggia, sai, non si fa niente. E ho messo un coltello lì, l'ho legato le due punte al paragrafino e poi le altre due le ho legate dietro al cartone e poi sopra ci ho passato le corde in modo da non perdere niente. Beh, tu dovevi vedere coltello quando sono arrivato a terra. Sembrava che ti avessero fatto un combattimento i gatti, tutto a striscena. Tagliato, tutto sfilacciato, sì. Sono detti di plastica, quindi no. Tu pensa che quando io avevo 40, che la telonata, lo stesso, un casino quando c'era il vento, si apriva, volava il telone, o spaccava il danino, tagliato, toccava. Perché era legato con quelle camere d'aria, capito come? E là. Con la camera da riempire, no? Si spaccavano quelle e volava il telone. Ecco, ma il brutto è che quando state viaggiando si spostava il camion, cioè il camion carico, lo spostava il vento. E poi a manettone e non riuscivo a fare più di una volta a settomi. Quando arrivava a centro era perché era in difesa, ma il vento si spingeva talmente tanto che non ce la facevi a farlo avanzare. Sì, via. Claudio, riprendi. Non trovo quelle batterie quadrate, Gabbo. Non me lo. Roberto Quadrato, perché non hai messo la batteria quadrata? Che lo sai che non ci ho pensato, non ho mai preso neanche mi viene a mente, c'era ancora da parte la batteria, l'ho tolta, ho detto magari può servire per altre cose, se non rovinarci dentro il microfono. Adesso si chiede, vai, la Claudio della porta. E allora mi mangiano il microfono, mi. È proprio Claudio. Claudio poverino no, anzi. Dimmi una cosa Mario, ma spaghi neri, mi hai sentito il malacchino? Hanno fatto anche il caffè. Canaritane mi sto dicendo. Media. Ma impegnati erano i canali, o solo uno? No, ero sul 5. Tutto il viaggio ero sul 5 sia per il punto di blocco sia per eventuali informazioni. Capito? E poi ho conosciuto questi che erano dietro di me ma non mette in mezzo. E poi ho detto, vabbè, l'occasione per pagare il caffè per essere più bene di rubare e abbiamo tirato il caffè. No, parlo in città, stazioni fisse, su che canale modulano? Ah, non lo so, non mi sono messo a cercare a nessuno, io ero lì per lavoro, tempo ne avevo poco e così che... ero sul tempo e basta. Direi una bugia se ti avessi detto questo, quello, quell'altro, no, ero sul tempo anche voi. KK, non puoi fare niente Mario, un po' più voce e un po' di radio. No, non posso fare niente, questo qui è l'apparato omologato, questo qui è il volume suo, e io sono molto incuricato. No, oh, dico, mettendotelo un po' più vicino alla bocca. Ah, così, la bestia. Sì, così migliora un po'. Ecco, ma perché se non mi si mette gli accali. Poi quando parla, vabbè, metti il microfono ormai, quando lo vedi tu mi tocca abbassare il volume, quando parla Mario alzalo perché la modulazione è bassa. Ogni ragazzi. Guarda, io sto parlando col portatile, non è un microfono questo. Ah, cazzo. Amare più forza perché mi assurdo. Davvero, eppure questo non ha né amplificazione niente, è un portatile. Anche quello che stavo parlando prima è il microfono da palmo da base, non è amplificato. Cappa cappa. Andale. E via. E io lo stavo cercando un portatile, raga, perché per portarmelo quando vado in vita, roba del genere. Ce ne sono sempre due di questi Intech su eBay, non li hanno mai venduti, sono sempre gli stessi, ci sono almeno un paio di mesi. Io rimangono lì, per me è tanto, possono rimanere anche una vita. Ma vai, bigliando lottamente, vabbè, purtroppo sei stato sfortunato, ma magari si risolve, mai essere troppo pessimisti. Poi se succede, se succederà, pazienza, è inutile prendersi troppo a cuore, io sono fatto così, una volta succede il danno, basta, dimenticato subito. Lo so, ma sai cosa ci vuole? Lasciamo perdere il lavoro per guadagnare, e che giornate devi passare lavorando? Gianni, lo capisco benissimo, è un grande sacrificio, però i soldi vanno e vengono, io per me i soldi non esiste il discorso. Certo, fai sacrifici, li ho fatti anche io tante volte per comprarmi tante cose, però ci sono cose, io dico sempre, ci sono cose molto più importanti. Poi se ti è andata male per questa volta ti andrà male meglio per la prossima volta. Dai, io vedo così la vita. Lo so, anche io sono ottimista in certe cose, però sono cose, la felice è ancora aperta, aspettiamo che ci rimarchi. Ti racconto un fatto che mi è successo a me. Sì. Allora, quando ero ragazzino, stavo iniziando con la radio, proprio all'inizio, allo piccolino, che ti davano una paghetta per vivere, diciamo, il fine settimana con gli amici. Ero mesi, non dico giorni, mesi conservandomi questi soldi per comprarmi un apparecchio, un finale, diciamo, un trasmettitore. Allora l'ho comprato, però alla fine questo trasmettitore si era rotto. È durato poco, diciamo. E allora ho dovuto conservarmi di nuovo i soldi per comprarmi il transito finale, e allora ti posso dire costava 90.000 lire. Stiamo parlando di diversi anni fa, cosa ti posso dire, 25 anni fa, e 90.000 lire erano una barca di soldi, erano mesi di sacrifici e di non andare a mangiare la pizza con gli amici, non andare di lì, non andare di là, tanti mesi di sacrifici. L'abbiamo montato con questo amico mio, appena piazzato, neanche il tempo di accendere l'interruttore, puff, partito. Anche l'altro. E cosa avresti fatto tu a quel punto? Suicidio. Eppure ho detto, basta, non me la fotti nulla, ci ho buttato i soldi, sono stato stupido, basta, finito. E mi è servita come esperienza. Ma perché non c'era qualche più finale? Era in corso, forse. Non è stato montato male il transistor, questo qua si dice c'era un'esperienza e invece ha montato il transistor al contrario, è arrivata la tensione dove non doveva arrivare ed è partito, appena acceso ha fatto puff, è sponso. Yeah. perché? Perché praticamente questo microfono c'è l'up-down e probabilmente non lo sta. Ma tutto quello che hai detto non ho capito niente, perché sei andato subito e sentivo questa voce tutta lontanissima, molto disturbata. Ho detto, boh, o non sta uscendo o c'è qualche problema, infatti eri sull'11, ripeti tutto quello che hai detto che non ho sentito. E boh, non me lo ricordo, perché stavo dicendo. Sì, vabbè, comunque, sì, lavorate comunque. Praticamente questo cavolo di tantini sopra il microfono, la troviamo che ho urtato senza volerlo e... mi ha girato il canale. Chi ha detto Tino? È stato Tino perché? E via. Ciao Tino, per me. Buonanotte. Mi siete, le spirituali sono arrivati. Sei super gettonato. Cosa vuoi fare? Ciao. Ciao Tino, mi hai sentito? Claudio? Guarda, è sparito. Claudio sta riducendo la tensione dell'alimentatore da 40 ampere per alimentare un microfono. Che ha pagato. Guarda, vai, senti, sta facendo le pizze con quel microfono. Chissà cosa serve per alimentare. Che poco ci vuole, due fili. Non ve lo dentro. Oh Gianni, mi sono dimenticato di dirti una cosa. Dimmi. Il microfono poi è arrivato. Ehi, c'era tutto, ma gli ho detto di rimettere tutto questo, di restituire tutto, non voglio vedere manco più, non la voglio manco più vedere quella roba lì, non voglio vedere di più, per carità. Tanto serve solamente nel malumore, parliamo d'altro. Scusa lei, no, poi non sono stati bene. Comunque era quello che ti doveva mandare, a parte le condizioni, era quello lì. E via, sì, ma in condizioni piattoli, anche il microfono aveva subito la stessa cosa. Dubbio, sì, sono fatto dubbio, vabbè, cambiamo canale, dai, discorso chiuso. E cosa stavo dicendo? E come queste cose mi capitano? Mi senti un po' lacciotto, un cassacciotto, però... che cosa devi fare? Non puoi sapere chi c'è dietro. Sono tutti all'agguato, questi disgraziati. Comunque io non l'avrei riferito, non ci credi. Ma mi ha fatto durare di là, però non gliel'avrei riferito. Ma cosa ne fai? Non ti arraggi lì, non te ne fai nulla, capisci? Non te ne fai nulla, perché non accende nemmeno. Non devi fare una cosa lì. E vabbè, poi magari poteva vedere qualcos'altro, dai. No, io ho dato 200 euro, non devo spendere nemmeno una lira, niente, capito? Con 200 euro però l'apparecchio a posto, che funziona è tutto più assistito. Vabbè, dai, ripeti, tira. Guarda che ti dà adesso buonanotte, mi hai preso per salutare il bus. Ah, non ho sentito, non pensavo che fosse entrato per discutere. Ha fatto ciao ciao e boh, pensavo che perché se ho sentito solo con l'altro, avete parlato in tre. Sì, probabilmente ci ha solo per salutare. Ciao, Claudio, cosa ti stai guardando? Il filmino? Stai guardando il filmino. Oh, a casa sono rilasciato e le ho risate, di tanto mi sento... si facciano le risate mia figlia e mia moglie è masculino. Ma carità, è scandaloso quando esci con Dambi. Lombardi, ma poi vi ha finita le china, non mi puoi decidere di dire al sopra. Grazie a te, sì. Comunque è benissimo quel film, io ce l'avevo già, ce l'ho già in cassetta. Mia figlia l'ha preso, l'aria l'ha preso la prima volta in cassetta e adesso l'hanno fatto a televisione. Infatti, no, ma noi l'abbiamo praticamente l'hanno noleggiato questa meccanica e ci abbiamo sdoppiato. Già fa. Avanti, Mario, Marcia, cosa stai facendo Mario? Cosa dovrei fare? Sono radio si è messo rilassato nel letto. A bene, che domani è un'altra giornata di combattimento che dobbiamo mettere a posto tutto quello più importante. Porca vittoria. E beh, ma c'ha due servizi qua. Scappo. Comunque anche loro c'erano due dispositivi. Cioè non ti dico come farli, non ti danno subito, perché ti chiedono soldi, le accadere non basta. Sì. Andare a cadere a mare basta, ma il fatto è che da basata giù ho trovato questa bufera di vento che la metà bastava e ne bastava più. Poi da Cagliari tornando indietro sono dovuto entrare per il bus e niente, poi il bus mi ha di nuovo caricato il suo materiale, coperto tutto e partito per sempre. Pensa che ora stanno messo il preventivo lui giù di gasolio, ma credo che non è bastato. Io mi avevo fatto un mezzo, ma gli avevo fatto fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a quello che mi facevo fino a la vela ce l'ha lui, perché in fronte c'è la vela, se mi sento che il vento a favore ce l'ho spinto. Appa, ma ce l'avevo contrario, oppure di fianco. Quando capitavo nelle curve che ce l'avevo di fianco, si poteva dare nell'altra corsia. Si può navigare anche col vento contrario. Comunque, il bus quando c'è il mio che è gabinato, il mio è alto, oppure quando c'è il vento che si passa lì a Barai, oppure alla torretta, dove c'è il mare aperto, va. Lì lì c'è stato che si muove un bel, che di un buco mi riusci, ma non vado a fame. Pigliavo le curve a destra, che si diceva, è sempre dentro il corsia sinistro. Figurati. Tu sei nel motore, lo metti sotto sforzo e quindi consumo un bel. Infatti, ho 100 euro di gasolio, non mi è abbastanza per andare per me. E non so, tu con bidone non è mai... Non è mai troppo, i bonari si portano. Il bidone ci hanno fatti, io ho visto che quelli di Caglia, almeno quelli che hanno il furgone di Caglia, si fanno una specie di insenatura per mettere il bidone dietro, cioè che il bidone è pieno di latta. Ma è sbagliato, io c'ho fatto il bidone a forza e le bottiglie. Avanti Roberto Quadrato. No, ma grazie a Dio, almeno con la macchina mia non mi è mai successo di fare a secco. Con amici sì, li faccio da piedi un po' di gusti. Io metto sempre il pieno a bocca, ogni volta vado aggiungo sempre il pieno. Non lo faccio mai in mezzo serbatoio. E guardate il contrario, lui sempre a riserva fissa. Io dico, ma che altro quasi fa tanto, la devi sempre mettere. Io l'ho riempito una volta al pieno, da quella volta aggiungo sempre, fino ad arrivare al pieno. A me mi scende a metà e sempre lo metto sempre il pieno. Anche perché poi quando scende troppo si succhia tutte le impunità e ti intasa tutto. Ma vabbè, quello non è neanche vero, di questo. Prima era così, adesso no. Perché no? Perché si tirano messa. Sì, c'è il filtro, eccetera, eccetera. No, no, c'è le pulità, se se le prende, se le prende lo stesso. Ma quando c'è il fondo, però, mi viene a fare a fine. A me il meccanico mai su lui, no, vecchie macchine, era diverso, ci hanno, sono tutto pressurizzato, è tutto diverso, adesso ha aspirato tutto quanto, perché c'è il mattuglio, c'hanno il filtro antivapore, non so se l'hai visto, tutto chiuso, non so più, ma tipo la 500, le macchine vecchie diesel che aspiravano da solo, adesso c'è tutta depressione, funziona. Ma non lo so. Comunque mi hanno sempre consigliato fino a lasciare alla fine fino a avere la riserva fissa. Poi, avanti qua. Mario, non pensa che Flavio non risponde. Perché Flavio è impegnato con quel microfono? Vabbè, se lo seguite impegnato il microfono non farà. Andato alla stazione a comprare la batteria. Minimo. Dalle bagni, ero il microfono. E anche tu non conosci a Claudio, non mi sono una cosa che non va bene, qui è fischio. Claudio è micidiale, cacchio, mi ha fatto il cavo di collegamento, una cosa allucinante, infatti ho detto, ma chi te l'ha fatto fare per quel passo? Mi ha fatto la natazione a 12 volte, che l'aveva già, ne avevano tagliato il capo, mi ha fatto un connettore da dietro, che esce bello, in modo che non c'è la possibilità di confondere la posizione del negativo col positivo. A quanto spazio stai vedendo adesso? No, no, io sto parlando quando l'ho fatto la portata a casa sua per fare le prove. Mi ha detto, vieni con il problema a 12 volt, perché funziona anche a 12 volt quell'apparato, però avevano tagliato il cavo di alimentazione e mi ha fatto il connettore dietro al pannello. Cappara. A quindi a 12 volt non funzionava? Sì, sì, no, non è che non funzionava, era fatto per funzionare a 220, però c'aveva la possibilità, usciva in origine almeno, un cavo rosso e nero, e l'avevano tagliato quel cavo, l'avevano eliminato non so per quale motivo, e lui, anziché unirlo, aveva fatto un connettore dietro da inserire, uno spinotto. Cazzata. Posso la mettere due bananine anche, no, vabbè. Sì, sì, no, vabbè, non c'è stato bisogno perché tanto usciva il figlio, no, è più elegante come l'ha fatto lui. Comunque, va bene, sì. Adesso sono soddisfatto, ti posso dire, a me piace, non dico che sia Mario, effettivamente quello che dici tu è, non tocchiamo col tasto, da di nuovo è molto più bello, però anche questo sembra un amplificatore hi-fi, esteticamente. No, ma io ce l'ho quell'apparato, quell'apparato lì ce l'ho in testa e vedrai che prima o poi lo prendo. Magari, te lo auguro, dai. Vediamo che si risolva bene quel discorso prima. No, non ci conto più. Non ci conto più dopo quello che sono andato a leggere sui miei. Ma di quella persona proprio? Pagamento uguale, mica uguale, eccetera, eccetera. Ha colpito una marea di bassoni. Ma questa persona? E via. E proprio non me ne mi hanno detto c'è una feedback con la stella quella. Si è creato tutto lui sicuramente, non fa nulla. E tu dici che lì c'è l'assicurazione, eccetera, eccetera. Sono solo balle, perché a me me l'ha detto un amico, lui ci ha perso 500 euro. Con una vita grossa, un negozio, eccetera, eccetera. Poi questo sconosciuto in me non gli ha dato niente. Ti stavo dicendo, ma questa volta la colpa è nostra, perché noi non eravamo con i B, ma al di fuori di B. Questo ci ha contattato Salvatore, dicendogli praticamente che ci ha visto che ci piaceva il gas, che non eravamo riusciti a giudicarcelo, perché lui ne aveva altri 20, lui in zecca, eccetera, eccetera, questo resto. Due anni di garanzia, vecchio amplificato e la massa che viene in varia. Ma non riesco a capire, come ha fatto a sapere l'email di Salvatore? Chi gliel'ha data? Non lo so, subito dopo mi è arrivato anche a me. Ma perché tu metti il tuo nome attivo di email? No, no, assolutamente no. E tu metti uno pseudonimo e basta, non è così? Sì. Io metto Gabriel 59, non c'è niente da nascondere. E basta, tu dico. Ma come faccio io? Metto un nome attivo così. E come fanno loro a rintracciare? Hanno questi collegamento con eBay, entrano nella banca data di eBay, di banca dati di eBay sicuramente. Allora, eBay ha spiegato che praticamente entrano per sapere tutto, ecco, l'indirizzo, capito? in modo che tutti vedano gli indirizzi, quando vedono gli indirizzi poi ti contatto, adesso ti posso dire, ho visto che stavi giocando per giudicarti il garage, ma purtroppo è stato giudicato da un altro, se vuoi posso offrirtelo allo stesso prezzo, eccetera, eccetera. Ma tu hai bene, gliel'hai chiesto, come mai, come sono riusciti a capire, trovo la foto il tuo indirizzo di posta elettronica? Me l'ha spiegato il Bigli, che praticamente questo qui prima vendeva sui Bigli, poi se ne è uscito dal Bigli, capito? Ci ha preso un po' di indirizzo e poi si è uscito, praticamente non stava più entrando sui Bigli. Sì, cosa vuol dire vendeva con eBay? Era un venditore normale come potrebbe essere tu o io, però come fa a entrare nella banca dati di eBay a sapere che tu ti chiami così e che c'è quella l'indirizzo di posta elettronica? Lo deve aver tolto per forza con metodo illecito o non so come. Poi a Roberto, se sapessi quanta gente sa che c'ha cranio, ho un bel di grano col confitto. Guarda che uno che fa il sito salvatore è entrato per vedere il sito di Cruise e ha scoperto cose strane, capito? Che si è creato, siti, roba del genere, quindi sono i siti fantasma. Praticamente risulta tutto quanto come se fosse vero, però sta giuro. Bogliato, quindi, questa figura di questo è un hacker vari che riesce a utilizzare le proprie cose o capacità in queste cose strane. E limita. Sono andato a verificare una cosa. Ho fatto una telefonata e sto andando a verificare una cosa. Molto probabilmente ci sono caduto anch'io. All'80%. Mi ho acceso adesso. Mi ha dato un sito questo mio amico, ma tu vai a controllare lì, dove ci sono tutte le aste giudiziarie. Se quest'asta non risulta, sei fottuto. No, aspetta, grazie. Tu dico io come fare, vai, fai www.posteitaliane.it e metti il numero del pacco per vedere dov'è. www.posteitaliane.it e ti inserisci il numero del pacco postale, dove sei partito. Bravo, sì, hai detto bene. Allora adesso sto digitando. Ecco qua. Adesso digito e poi te lo dico già. Sì. No, io mi auguro di no qua, però ti faccio quando le attaccate che fa tutti i bombo di ieri. Già. Eh? Numero del pacco resistente. Cazzo l'ho detto. Ai ai ai. Segnala subito il B. Ma se quanto deve arrivare la roba? Domani. Aspettiamo domani, là. Vediamo un po', speriamo di no. Speriamo che non sia così. Ma scusa, se io c'ho il numero della spedizione, qua mi dà il resistente. Sì, ma dove sei entrato, Claudio? Sito Marco già. Ma deve entrare sul tipo di spedizione, che spedizione hai fatto? Pacco cellule 1, 3 o che cosa? Cellule 3, c'è scritto, no, l'ho già fatto altre volte. Con quel codice non risulta? Negativo, non esistente più. Questo numero fasullo. Era proprio di un fasiglio. Nessuno ora ce la porta a chiudere, se mi sente la mia mamma. Mia moglie non sa nulla, infatti non è parlato per questa perché se lo sente è un casino. Neanche mia moglie sa niente. Già si chiede qualche cosa, però è tutto quello strano. Non lo sa. Sa che ho preso queste radio e le ho già rivendute. Ma pensa che male bottito gli si chiama il gruppo. Beh, se non ti dà il numero fra buono di rubare in fase perché vuol dire che ti ha fottuto. No, mi ricordo non l'ho fatto giusto. Ma il numero da lei è inesistente. La richiesta è inesistente. Da questo numero che ti ha dato Claudio di spedizione? Lui. Lui proprio, cazzo allora. Lui me l'ha dato lunedì. Io volevo sapere se era tutto a posto, conferma, ma ti ripeto, io al telefono posso anche dire che sono il comandante della capitaneria di Porto Torres. Tu come fai a sapere che sono io? Sì, io mi progetto così. Io ti do questo numero, tu chiami. Mi hanno dato questo numero, quello ho letto, quello ho fatto. Con lui ho contattato, con lui ho fatto tutto. Come Gianni? Cosa? Grandissima offerta. Capito? Offertissima. Infatti l'offertissima c'è. Inculatissima c'è. Adesso fa una cosa qua. Clicca a fianco, c'è una stanzetta dove c'è il motore di ricerca e ci metti, aspetta, come forum e buy, e poi vai a vedere la gente che si sta fregando. Forum e buy, si scrive, no? Sì, via. Adesso, Gianni, in percentuale delle vendite che sono state fatte da noi, parlo in questo periodo, c'è una percentuale altissima di fregatura, cazzo. Su quante vendite abbiamo fatto in tutto, tra Claudio, io, il tuo, eccetera, eccetera, c'è oltre il 50% di fregatura. Sì, sì, infatti io ho figlio, qualche secondo lo so veramente proprio, piccola vista, roba. Anche se quello lì è un apparecchio che desidero, lo devo provare, toccare col mano e provare, sennò basta. Ma l'ho fatto il giorno che me lo voleva vendere, Stefano, che non l'ho preso. 200 euro, come con la pubblicità e tutto. Ma... questo da molto, già. No, sarà 2-3 mesi fa me lo voleva vendere, sono anche di più, forse l'hai fatto le scorse. E gli ho detto, guarda, lo pensaci perché per lo spazio, non lo so, mia moglie se me lo permette, sai, devo essere anche d'accordo con lì. Intanto mi stava a aspettare, l'hanno già venuto, ho capito. E tra l'altro l'ha venuta Manolo. Manolo me l'ha portata a vedere l'altro giorno, perché devo fare il mobiletto per prendere le misure, bene tutto quanto, eccetera, eccetera. Io ho già il disegnetto col mobile, via, la cappa, non mi ha bisogno. Lo so, purtroppo, vabbè, ormai è successo tutti i bimbi. Yeah, ma tutta questa gente praticamente sono lamentele. No, c'è qualche lamentele, c'è anche qualche altra cosa, magari che non riguarda queste cose qua, però ci sono molte, ma molte, ma molte lamentele, specialmente sul pagamento con... PayPal, tutte queste cose qua. Ho capito, vedendo. E poi io, Gianni? Stanno non mandando la merce, capito? C'è chi paga, che non anche a Marco mi hanno fatto la stessa cosa, 83 euro mi pare da non fuffiggi. Spiega, me l'ha detto. Per carità. Però è 83 euro, sono il presente e lo divento io. Anzi, diciamo che a me a Salvatore ne ha fregato 400 addirittura, se non ce ne sono. Ma ci siamo in tre, se ti sento, bro. Sì, vero tanto di andare in Italia, ma tu dove l'hai fatto diversamente in Italia? Un bagno telegrafico internazionale ho fatto. Internazionale? Basta, fatta. Così mi ha chiesto e così gli ho fatto. E cosa ne so buio? Da dove... Lui mi ha detto che la merce proviene... dal confine, quindi l'ha voluto internazionale, sbaglia. Claro, io ti auguro di no, ma questi volete lasciare sono le fottiture. Ma sono già, non me lo avrei fregato, guarda, qua continuo a dare il numero, niente da fare, proprio mi dà, ci clicco e mi dà il numero del pazzo è sconosciuto. Proprio, cioè, non esiste proprio. Oh, Claudio. Il numero, normale. Claudio. Dimmelo. C'è il numero del telefonino di questo? Numero di... sì, di telefonino. Numero di telefonino. Aspetta che provo a farlo questo telefono. Oh, stai tranquillo che non ti risponde più. Le lamentele che ci sono, sui lì. Dice che non rispondono quando tu lì. Oh Claudio. Oh? Tu ti ha risposto a questo numero? Mi ha chiamato lui da quel numero. Mi ha chiamato lui. E mi ha detto ci sentiamo lunedì. Mi chiama questo numero e così ti confermo gli do il numero del pacco. Mi ha chiamato tutto, lui ha fatto. Ah, se lo richiamo questo numero che io mi sono segnato, non me l'ho memorizzato, ma me l'ho segnato in un pezzo di carta. Aspetta, lo richiamo, vedere se mi risponde. Guarda se c'hai qualche conoscenza che riesci, già si può risalire di chi è. Sì, sì, ci buttano schede tipo quanto, sono schede prestate, ecco. Oh, yeah, in Inghilterra, non so cosa mi hanno detto, mi hanno detto questo finanziere che fanno, praticamente prendono delle schede che sono per l'ascolto, rispondono e poi ci ributtano via, capito? Loro contattano con te quando mi sono deciso di stampare la scheda e la prendono male. Sì, ma non c'entra niente, la scheda è nominativa, il numero risulta una persona. No, sai quello è bello, i telefoni di casa in Inghilterra sono come i telefonini, se comprare una scheda non è nominativa né niente, cioè praticamente ha un codice che devi digitare cose per entrare, capito? Basta tutto lì. E tu c'è col codice lì, lo digiti col telefono e via, e quindi funziona. Non c'è nulla di nominativo, quindi loro salvano le cose così, poi la buttano lì e non si accappa le bio. Oh già. Sì. Mi ha risposto, ma non è lui. Sto cercando, no, io non mi chiamo. Adesso io mi chiamo Tizio. Non farà butto che non è altro questo. Ma il numero bene le fa. Sì, sì. Ma questo numero, gli ho dato i numeri e mi ha detto sì, questo numero è giusto, ma io sono Tizio, non ho niente a che fare con... Chi gliel'ha dato questo numero? Come mi hanno chiamato adesso con questo numero? Cioè, guarda, è impossibile perché io questo numero ce l'ho da poco. Ma che non gli ho fatto? Sei collegato a qualche linea telefonica? Non è il gioco, non è andata, ho ben capito che è andata. Andata, sto continuando a cliccare, ma dimettila, niente da fare, mi dà sconosciuto, ma inesistente proprio, il numero selezionato del pacco è inesistente. Allora, tu da eBay l'hai fatta questa cosa, o fuori eBay? No, da eBay. Ma non era un sito a parte? Ah, eia già. No, non c'è niente da fare qua, non c'è niente da fare. Ero segnato, si dice che è un farfallone, non ero segnato. Era un sito a parte, sono entrato. Ma guarda tu, cioè, non ci voglio pensare. Ma mi rendi ansia. Un sito creato da lui probabilmente, come siamo andati a cercare altri tipi di siti che erano siti fantasma prima di entrare. Abbiamo provato ed erano siti creati da loro, siti fantasma con numeri falsi, tutto falso. Allora è successo così, a me mi è arrivato un'email in posta elettronica, ok, io sono andato a leggere, c'era scritto visita questo sito, troverai apparecchiature importanti, belle da vedere. Io sono andato su quel sito e lì c'era questa offerta, e tutto da lì ho preso. E poi mi ha contattato telefonicamente lui, quindi lui a me mi ha visto su eBay e ha pitigato a me. Sì, pitigati a tutti, anche pure a me non ha fatto niente. A noi Claudio ha fatto la stessa cosa, ci ha mandato una lettera dicendoci che ci avete interessati a grazie eccetera eccetera e via dicendo. A me ha visto che io sono abbastanza interessato perché ci sono tutti i giorni, hai capito? Magari è andato a vedere, cosa mi dice lui? Ha visto che sto comprando anche roba grossa, mi ha fissingato, mi ha fatto questa offerta e ci sono caduto come un pollo. Non ci voglio pensare, cazzo, mi sta venendo la disperazione. Claudio, il vale a tua fidanza è stato. A questo qui. Beh, allora si risale. C'è nome, cognome, indirizzo, tutto qua. Ma quello scappa, una volta che prendi su di scappa. Ma è telegrafico già, è come un pagamento portapegni, è telegrafico, capito? Gli arriva in 2 ore il vaglia telegrafico. e lui come gli ha detto adesso gli sfugge, quindi da un po' se va nell'altro per non beccarlo. Ma solente maledetto che... funziona così, secondo me l'organizzazione sta beccando un di gente, io ho letto, non so se tu stai leggendo, però se non vedi la mentele. Beh, io adesso mi prendo tutti i dati, li già arriveranno a questa persona, domani mattina vado in questura. Anzi, adesso chiamo Gaetano, un mio amico che la chiama Tor. Vediamo cosa mi dice che lavora in questura. Aspetta un attimo. Anche noi, guarda, vogliamo fare la denuncia, boh. Aspetta, ma cosa mi dice? Denuncia a farla subito, Gianni. Ma è bello che io sto parlando con questo medico finanziario e mi ha detto che sono, secondo loro sono un'organizzazione che stanno truffando gente a tutto andare, capito? Allora truffano in un modo nell'altro, ma la truffano, poi scappano quei soldi. Yeah, proprio per quel motivo lì è meglio denunciare, così almeno i controlli aumenteranno verso queste persone. Sì, ma è roba internazionale, ancora non avete capito. È a livello internazionale, io quando l'ho chiamato questo qui, era in Inghilterra, capito? Quando ho chiamato con Salvatore, era in Inghilterra, si è parlato Salvatore. Vabbè, ma cazzo, se lasciamo a perdere, io la denuncia tanto non costa niente l'aver fatta. Sì, ma io ho già parlato con gente competente e mi ha detto che prima si rilascia la priorità per altre cose e che sono cose secondarie queste qua. E poi così va, di non farci fregare, di non comprare nulla la Inter. Però io non le avrei chiedito di apparati, non ci credi, me le avrei tenuti fra i gradi, però me le avrei tenuti. No, assolutamente no. Se me lo vedo davanti mi viene da piangere, tu che lo porti a casa a fare più frasi, no. Se me lo vedo davanti mi fa incazzare, lascia perdere robe, non parliamo più. Sì, allora spendi anche i soldi per rispedirli, ma sta scherzando. Rispediamo al nome suo, a incarico suo. A incarico suo, e non deve pagare per ferire. E noi chiediamo se c'è qualche prassi che si possa scudire a carico suo. Capito? Quindi che quando arrivano lui paga per tirare. No, non penso ci sia niente di simile. E se no guarda, allora forse 400 le possiamo perdere anche 20 in più. No, però lui ha detto di spedirli perché se no praticamente non si dà le dirà se non li spediamo. Cosa facciamo? Io rischio che non mi riesco di magari come li là. No, sembra, ci voglio tentare. No, non le avrei detto, li spedisci in uffi e poi ti spedisco i vecchi eventualmente. Sì, e lui è matto che lo fa, sì. Ma poi non è un'organizzazione anche questa qua che ha truffato e basta, tutto lì. Guarda, ma è così. No, io le avrei tenuti qua, non le avrei spedito manco morto. Ormai la bottitura è pigliata, però me le avrei tenuti. Si fa di spendere anche i soldi del trasporto e poi magari... che fa male, non te ne lasci, non te ne restituisce. Ma lo voglio pensare io, perché ho la speranza. E dopo la speranza che il ristorante muore calzando, però ti voglio contare. No, la sabato domani mattina li spedisce direttamente. Abbiamo già parlato. Spedisce direttamente, sono già chiusi i pacchi e tutto quanto, che dovevano richiusi i pacchi come erano, e rispediti subito. No, l'ho fatto, neanche se mi vede anche la moglie di Salvatore, se c'è il casino qua, è meglio che non ci pensiamo. Ma dimmi una cosa, ma le scatole erano le scatole originali o delle scatole camuffate? Originali, perlomeno penso, se non è che ha rifatto pure anche quello. Cioè, ma non è possibile che un apparato sia caduto dentro l'acqua per dire nel trasporto, è impossibile. Allora c'è la sua scatola originale dove la compete, in più c'era uno scatolone, praticamente questa scatola, la parte entrava nella scatola grande, capito? Gaffa. E il microfono era lo stesso della sua scatola originale? No, è la parte, era sopra, allora, praticamente avanzava uno spazio in alto e c'era il microfono. Il microfono era lo stesso rovinato, non funzionante. Il microfono come faceva a provarlo? Cioè, su altri apparati lo potevi provare, ma praticamente non funzionava la parte, come facevi a provare il microfono, Roberto? Non mi sono mai pensato a farlo, sinceramente, guarda, l'incazzatura, cioè, mi stavo venendo pure a prendere a calci tutti. Ma no, pensavo l'avessi provato su qualche altro apparato. Era comunque in pessime condizioni come l'apparecchio, uguali identici. Era rovinato anche quello lì. Era rovinato, vabbè. C'aveva anche quello lì, c'aveva le scatole tutte a mezzo molto strane, molli, capito? Mollisce. Gaffa, gaffa. Come quando la scatola si impregna di acqua, che magari asciuga, però rimane molle, capito? Che era presente come succede. Gaffa, no, guarda, io sto per... Voi l'avete provato a accenderlo, tutti e due o uno soltanto? Tutti e due l'abbiamo provato, prima cioè, abbiamo detto, va, se c'è la fissitura magari l'uno dei due, abbiamo detto, ah, questo qui è tuo e questo è mio, abbiamo già deciso così, ok, proviamo il tuo, prova e non accende, no, che scaroniata che ci ha fatto, proviamo il mio altrettanto, a parte quando abbiamo visto gli apparecchi, oh. Ci siamo guardati il sopra, si ridono se piange. Ma non è voluto il contenitore del tappo, l'avete tolto? Quale tappo? Il tappo, diciamo, è la miera, la copertura dell'apparecchio, l'avete tolto per vedere cosa c'era dentro? Non ho aperto niente, io non ho aperto, vabbè. Non attivo che quando fuori era tutto quanto ossidato, tutto il tappo, cosa mi mettevo a pulire l'apparecchio? Non l'ho mai toccato. Noi ci siamo avvalsi del fatto piaciuto rimostrarsi, capito, entro su giorni, quindi mi ci lascio questa garanzia qua, speriamo che svalga. No, no, per vedere se era pieno, ma a livello di peso, c'era roba dentro o era abuso? No, era pesante, c'era, no, era fatto, penso che fosse completo, però ha preso ruggine, ha preso, c'era qualche corpo, qualche cosa, non lo so, uomo. Non era una parte in poche parole, io gliela solo gliela salvato e rispedirli indietro. Lui le stesse cose, cioè le stesse cose, anche lui lo rispediva indietro, o c'ha dei dubbi? No, no, spedisci tutto, no, facciamo, abbiamo fatto tutto insieme rifacciamo, Roberto. Abbiamo preso gli apparecchi insieme, io gli ho dato i soldi, lui ha pensato a fare pagamenti tutto quanto, pensando di per evitare di farlo arrivare a casa mia, se una moglie si avvisa. Invece è andata come è andata. Chiusa a parentesi, Claudio. Aspetta un telefono. Oddio, ma poi dopo che ti sei cercato tu l'hai sentito al telefono a questo? Eh? Sì, mi ho sentito e poi l'ho ritelefonato di nuovo e non rispondeva più. Ma era lui, cioè, dalla voce sorpreso o tranquillo, un artista? Sembrava un attore qua. Ma mi dispiace molto, ma magari dice, sa cos'è che magari in mezzo a tanti può succedere, sì, ho detto, ma uno può succedere, non tutti i due quelli che ha mandato a lui, mi permetta, scusi. Ma guarda, io non mi sono reso conto se non l'avrei mai fatto una cosa del genere, questo e quell'altro, capito? Ma comunque dice, mi viene un po' male da lì subito, comunque mi sono considerato che soddisfatto di Morsatti, io gli ho appuntualizzato, ma qua dice, soddisfatto di Morsatti, entro il tuo giorno, io non sono stato soddisfatto, quindi voi gli sono indietro. E così sì, mi rispedisca che io gli mandi su, non c'è problema. E dice, cosa dobbiamo fare? Se vuole dice di mandare gli apparati. No, no, no, io non ne voglio più, io ne tengo di su. Beh, e magari ti rimanda su, te lo avrò colpito il cuore. E io me la sento, almeno se ti ho fatto tutte le due risultati bellici, non te ne fai un cavolo. Ma se siete due rispetti antichi. Gaffa, gaffa. Non fa, dai, vabbè, non fa vedere le cose che tu ti danno dolore e basta, perché non vedi ti viene voglia di, va, ti sparati tu stesso per non sbagliare il fatto. No, ma sempre un'esperienza, qualcuno dice l'esperienza quando ce l'hai è sempre troppo tardi, io invece lo vedo in un altro senso. Dimmi, allora, il discorso è molto, molto semplice, perché loro sulla provincia di Sassari, di questa gente che sta navigando su eBay in questo momento, in queste condizioni, ne hanno circa 500. Ah, vero? Sì, sì. purtroppo sì, è un bel casino. È un'organizzazione internazionale, come dicevi tu, che praticamente sta truffando queste cose, e molto probabilmente la Guardia di Finanza sospende questo mercatino di eBay, perché sta diventando una truffa internazionale. Mi dispiace, perché ho la delusione che ci trova. Cazzo, non è una delusione. Non viene della Ginkgo, cazzo, 300 euro buttati. Non avrei gettato il 140, ma 300 euro me l'avrei tenuto, non ci buttarlo così. Lo so. Se tu sei una cosa, però tu me l'hai detto, me l'ho immaginato, lo sai. Perché avevo già letto le cose, ma non te l'ho detto nulla, non te l'ho voluto dire per non deludere. Sì, non me l'ha confermato adesso questo mio amico. Guarda, abbiamo 550, metto 530 denunce. Moretto, e abbiamo già passato tutte a mano la magistratura, dove il magistrato tranquillamente ha girato già la palla alla tributaria, quindi la Guardia di Finanza sicuramente adesso interviene su questo mercatino, su questo eBay, su internet, e blocca automaticamente tutto il meccanismo di vendita e di acquisti per quanto riguarda i corrispondenti. Quindi lo toglie direttamente, capito? Fino a capire che cosa sta succedendo. Fino a quando non si trova questa banda criminale che sta operando su internet, ma non solo su eBay, ma stanno operando anche sul traffico di cassette, di videoregistratori, di telefoni, telefonini, si stanno operando su tutto, basta ci sia da arrastrare, ti propongo un'offerta, mi ha detto, per dire tre telefoni al prezzo di uno, e chi è che non li compra? Buoni, Samsung, qui e là. Poi ti rimandano, tu le fai il pagamento e ti mandano in mondezza, ti mandano tre telefoni usati qualsiasi. Se ti rimandano in buro, adesso vediamo a che cosa ti dice. Cazzo, non voglio alzare, mi sta venendo. Io ho un po' di febbre, per carità di Dio. Sì. Allora, beh, tu non sarà molto sicuro qua. Aspettiamo domani, vediamo un po' là, se arrivano. Se no, pazienza. Mettiamo il cuore in pace e non lo dobbiamo fare. Poi anche la polizia postale, se succede questo qua, noi alla fine anche la polizia postale. Ma Marco c'è, Marco Scorpio? Trovato la radio? Guarda, ho robe, io ho il BGR Top 1, adesso ho trovato il BGR Top 2, FM per 2 litri. Andiamo a cliccare, a vedere. 67 euro, 6 offerte ci sono, va. 2 giorni manca. Dunque già, allora io sono uno dei pochissimi fortunati. La cosa l'ha fatta a me? A me me l'ha mandato contrassegno per 69 euro e qui c'erano 9 euro di spese postali di Paco Celere 3 e non me le ha fatte pagare. Sì, tu hai fatto quello mesto, ma io non sono stato fortunato fino all'ultimo apparecchio che ho comprato, già lo sai, no, te l'ho detto, con 99 euro, un apparecchio nuovo di Zecca, però gli scatola, sigillati, tutto, con spiegazioni, batterie, auricolari, tutto. Cazzo, anche io questo qui non è magari nuovo di pacca di negozio, ma è come che sia nuovo perché è perfetto, integro, non ha un graffio né un segno, nulla. Ma la custodia in pelle mi ha regalato pure la cosa dell'accendisiga, dell'auricolare, eccetera, eccetera. Ma è stato onestissimo. No, ma il mio era proprio l'uomo di negozio, però l'ho preso dal negoziante. Claudio, no, se non consiglio, non è bene il manco di Sigorsi. Lascia perdere. Che abbiamo preso una grossa, frutti dura. Per carità. No, non è per me, no, è perché io ho il BGR Top 1, questo è il Top 2, capito? È un veicolare, questo non so se è veicolare, ma adesso potrebbe essere fatto un po' sì, anche questo, no, questo è proprio la fotografia, una grandissima gaggetta, però, C'è scritto qua, prezzo riserva raggiunto già, 67 euro, cosa vuol dire? Cioè praticamente quello dei soldi che vuole va lui, li ha raggiunto, se poi tu vuoi fare di più, puoi fare anche di più. Praticamente se 68 euro te lo dà, capito, se te lo aggiungi. Ma mancano due giorni, 23 ore. Io ho raggiunto già il suo posto, quello che voleva lui, poi se continua ancora meglio. Praticamente il prezzo di riserva è quello che lui richiede sia il suo valore, il valore dell'oggetto. Qui c'è Luca 62,90, ma chi è Luca di Sacari questo? No, è Gianluca, mi pare Luca. Ah, Gianluca si chiama. Sì, confermo anche io, Gianluca, quello che prendevo infatti c'era Gianluca. Ah, allora, Bongo, come si fa? Prima te lo metti sui preferiti già e poi posso fare l'offerta? Sì, poi da preferiti, tu lo metti sui preferiti e guardi, no? Ma io vedo offerte ancora, oh via. No, oh, non è per me, no. 67 euro, non è per me. Non è per me. Che non siamo non visto una procedura, cioè adesso poi di lì ho visto c'era cioè, due o tre gas di cui uno furbo. Guarda, lo sai che mi stava riattivando a prenderli, ma si la mille luci. È troppo forte questo sistema, cioè. No, questo è un animatore di Monopoli, Bari, Italia. K7 FML. Non vedi anche, adesso poi guarda su rz.com a vedere chi è. No, quando c'erano i nominativi così i rimattori hanno poco da scappare. Io il top 1 l'ho preso da rimattore, ti giuro. L'unica cosa che mi ha rallegrato il cuore, come ha detto Marco, è che questo apparato che ho preso, transceiver, per i 2 metri, mi ha pagato di tutto quello che mi hanno fottuto, capito? Perché è veramente molto bello, quando vieni qua te lo faccio vedere. Mi ha pagato di tutto quella radio, veramente. Però adesso c'è il top 2, vedi? Io ho il top 1, cioè, ho trovato il top 2, però non è vero, non è base come questo. Questo è veicolare, però non mi dà nessuna spiegazione qua. Non riesco a capire, funziona a 13,8 volt, da una potenza di 5,30 watt, è previsto il microfono e cordone di alimentazione, è un buon esemplare che fa il suo lavoro più che onestamente, esteticamente si presenta in buone condizioni come da posto, allegato, apparato, funzionante, nessuna garanzia, vale, regola, visto, piaciuto, comprato e inculato. Quindi si può suonare il giamaglio. Qua non offro nessuna garanzia, vale la regola. Visto, piaciuto, comprato, pagato e curato. No, ma devo stare io da su fuori. Ehi. Che non mi continuo come lui. E lui dice Marco. Qui si compra con garanzia. Non offro niente, ma vale la regola, visto, piaciuto, pagato, comprato e curato. Buona anno a tutti. Sì, ne vedi sul forum c'è scritto contatto in anche via. No, puntini anche via. Ah, chi sono perfetto, non chi ce l'hai scritto blu. Mario si deve essere addormentato. Vabbè. Anche io adesso chiudo, vi saluto, ciao Claudio, ciao Gianni, tanti auguri per questa storia qua, speriamo che vada a buon fine, vi saluto a tutti, alla prossima, ciao, buonanotte. Ciao, sentiamo, vabbè. Sì, me lo auguro anche io, dai, anche per Claudio che sia una baglia, basta. Abbagliarido di un miliardo. Sono caduto proprio a testa a terra questa volta. Sì. Compro. In culo. Sì. Via. Per carità di Dio. Che gentile che esiste al mondo. Era quello che diceva, abemus papam, e vecchio cinese, abemus incurados. Ma che pensi, i sembri che si fa questo qua, 300 per uno, 600 all'altro, 900 all'altro? Ma cosa ne mi rendo di cipiro? Raccolta Ciro, buongiorno, Giulio Sicchirio, ci siete la ginare. Guarda, io sono nel parere che preferisco comprare un apparato, qualcosa in più di qua, a Roma cos'è che funziona tutto tanto, e abita il dolce e mega, sì, ma infatti, però già, cioè che un sistema di facciamo anche di comunicazione tra un corrispondente e l'altro, non ci debba essere un controllo più adeguato, insomma, cioè, qua ci devono essere iscritti, con tanti documenti. A me ha voluto buio i documenti, ma ha voluto copiare il documento, ma io mi truffa. Va a fare che rapina e boh. Denunciano, denunciano. Ma non c'è se avrebbe il pollo che ho fregato. No, ma glielo ho detto a questo mio amico che io ho mandato anche i documenti, ma detto mai. Non si manda mai nessun documento. Perché lui con il documento tuo può comprare qualsiasi cosa e quelli sono farabutti. E che cosa è che sto domando i documenti, c'è una piccina incoglionita, mi ha detto. Sì, perché tu non sai cosa fanno, loro non le carte, ci mettono il tuo nome, la tua fotografia e hai fatto il gruppo. Fisci, Maria, ma come si fa? No, no, ma già è così perché io ho fatto il voglio internazionale, è così, no, non c'è a sbagliare. No? Internazionale l'abbiamo fatto noi. Hai fatto pure io, me l'ha chiesto così, ho detto, ma vuoi un voglia normale in 3 giorni? No, no, no, telegrafico più veloce possibile e internazionale, altrimenti possiamo perdere l'occasione che abbiamo sotto mano, sai, è tutta roba che è stata recuperata da un sequestro. Dice, boh, vabbè, allora ti mando subito i soldi. Se vuoi te li faccio avere, sì, guarda, più in fretta possibile. Più in fretta possibile ti ubriare il culo. E a che devi fuggire? Se no come ti guarda a fuggire? Farà, butto che non è altro. Ma come ci fa? Se la butta tu non lo sa fare. Ti prendo tra le baracchini, vai giù. Non riesco a... Guarda, è una cosa allucinante, veramente, credo. È una cosa allucinante, cioè che possa esistere ancora questa gente così. Ma io aspetto domani, le ho detto al mio amico, guarda, io aspetto domani, dopodiché ti faccio sapere. Se domani non ho risposte chiare, io vengo lì con quello che ho in mano e... faccio una ricerca nominativa e questo vanno a prenderlo avrò votato le votitele dentro io ma tu pensi che lui ti abbia dato il nome giusto? Sì, domani capì non trovi il nome giusto magari si fa chiamare così in quel posto poi si chiama con un altro nome appende magari così posso dire in questa casa fantasma appende il nome di un altro nel campanello, quindi sanno che si chiama così, gli portano la roba tutto grande e via dicendo, fa risultare che un nome è falso e giusta con quello lì e poi vanno alla società e me ne da un altro e mi vedi che scrive il nome giusto. Ma infatti già mi sono accorto al telefono che il numero che lui mi ha chiamato mica è suo. Io si chiama Giampaolo, questo l'ho chiamato io sono Giampaolo, ho capito che si Giampaolo, ma passami gli ho detto a... Ma ha detto, ma guarda io non ti posso passare nessuno perché io non ho, qua non c'è nessuno. Infatti mi ha detto, ma questo numero chi te l'ha dato? A me mi hanno chiamato con questo numero, io me l'ho scritto perché mi hanno mai detto di richiamare. E dice, no, forse guarda c'è stato un disguido. Ha detto, vabbè, scusa, cosa devo dirle? Se avrà fatto a farmi arrestare, invece di arrestare, io devo arrestare a me. Ma sto, Io non ascolterò l'accento di quello lì, lo stesso accento avevano, quello lì che è chiamato stasera con quello che ha parlato, ve lo sa? Più o meno figlia, più o meno, boh, tutti continentali pare sono tutti uguali, tranne il romano. Che non sia qualche organizzazione tutta, e magari ha fatto rispondere a un altro per sviarti, capito? Insomma, altro che non conosce nessun tizio e che il suo telefono lui ce l'ha da poco, tra l'altro. Perché, ma questa non è un ragazzino, è una persona grande, sentiva dalla voce. Il suo telefono mi è stato regalato da poco a me, io questo numero non l'ho mai dato a nessuno, dice. Come hanno fatto a darle questo numero, mi ha detto? Eppure c'è gente che riesce a scoprirlo, magari tramite internet, per farlo qualche lavoretto, e cosa ne so, mi fa il numero di battiti. Guarda, come ti dice una sassa e naggio, la faccia in terra, veramente. Assurdo ed impressionante una cosa del genere. Assurdo e impressionante. Claro, a tutti i bimbi, poi succederà a tutti perché tu non sai chi c'è dietro. E come fai a saperlo? Io quando ho messo al cugino di mia moglie le finanziarie mi ha detto, dovete stare attenti a queste cose. Cosa fai? Cioè, come fai a stare attento? Già, non mi comprare più roba da internet, se si sa che ci sono queste fregature, basta adesso. Ci abbiamo roba di 500 denunce anche noi. Ma se ti studi, non male. Così mi ha detto questo qua, questo mio amico da Diamantore, ma hanno lo stesso più di 500 denunce, 550, 530, non mi ricordo, cioè, perché lui è in un ufficio diverso, non è l'ufficio denunce, cioè, comunque domani se mi chiami ti faccio sapere com'è la situazione. Fammi sapere, dice, fammi sapere, intanto che la figlia da Reggio c'è buio. Ascolta, tu cosa hai fatto? Non è Union Intermission, non è vero, come carta. Tu hai fatto quella postale e noi ci hanno fatto fare invece quella bancaria. Ma c'è lo stesso procedimento internazionale, capito? Procedimento internazionale, sia bancario che postale, sono sempre uguali. Allora, per noi è andata la moglie di Salvatore, praticamente si è dovuta iscrivere in banca e gli hanno dato un numero di codice che poi la prossima volta c'è così utilizzata senza fare tutta questa prassi. Sì, la prossima volta, mai più. Anche a me mi hanno fatto iscrivere, mi hanno fatto firmare un'adesione, una cosa così, perché per i vari internazionali non è facile. E quindi c'è una prassi da seguire, ma il magico modulo, io gliel'ho dato, gli ho dato i soldi e mi ha dato la ricevuta del vaglia internazionale. E al posto la voti via. È la stessa cosa che avete fatto voi. Non è che non va nulla da giambare. Non c'è proprio niente da cambiare. È uguale, preciso identico. Sarò ecco. Siamo tanti mezzo alla mettere dei bastardi. Non tutta niente che è proprio a noi che viene così. Sembra che c'è una gara in testa. Non l'ho fatti due giorni a noi, no. Se penso perché se il bevinese stesso l'anno in tutto ho detto che ce n'è più di 500. Quindi non è che sia solo a noi. L'hanno giustato molto bene. Sì, è un'organizzazione che ci sa fare. Io spero già che si ribicchino questi animali si fuggi, se no nella rete può cadere anche altra gente. Ma visto che stanno facendo molte denunce, penso che si muoveranno, anche se ti dicono sempre che ci sono le cose prioritarie, che sono cose più importanti, che qua e là, capito? Io metto un secondo ordine queste cose. Roba la macchina, veramente, cioè non capisco come si possa arrivare a questo con tutte le cose che ci sono, cioè internet è un meccanismo a livello mondiale, boh, non l'ho compreso, ma guarda, non ho parole già. Adesso qua che vedi il computer, lo so già, che deluso. No, beh, vende non me lo vendo, però no, me la tutti nulla, cioè come finisco questo contratto, no, non me ne frega niente, pure se lo vuole usare mia figlia, glielo metto in camera, in cameretta, si arrangia, a me non me la tutti nulla. Io mi metto a fare quello che facevo prima, cioè mi devo stare lì a rompermi l'anima, a farmi fottere la gente, i soldi che mi lavoro, che oggi sono un industriale, io vivo a stipendio, se c'ho qualche soldo disponibile è perché me l'ho lavorato, non perché lo rubassero come te. Mi ha fatto buonia da ridere dagli filatri, no. Vabbè, c'è fare se che sì. E tu fai di sotto, quindi si mettono a poco a guadagnare, vero? Io non dico. È proprio vero, chiaramente i soldi non se ne fanno. Dove se ce l'hanno studiata tutto nei linee particolari? Senti, amato. Mentre, spende quanto è troppo te. Ecco lì, non fai a bravo. Aspetta, devo mettere il pigiama, riprendi con Roberto, mi metto il pigiama, se no mi fa studio. Vabbè. Vabbè, tutti i budgeti. Oh, io sono qua, non ti senti per chiamare. Perché sto mettendo il pigiama a Marco? Mi ha portato i pezzi di sopra, ma due pezzi di sopra, il pezzo di pantalino, ma la porta. Ma Roberto ha chiuso, siamo solo io e tu. Non so se c'è Mario. Mario. Mario deve essersi addormentato. Mario è stanco così, dalle 5 ai piedi viaggiando, non chissà temporale, non chissà cosa, un giallo grillo. Alle 68, non c'è sempre. Sto guardando, girando a destra e a sinistra, se ti tipo l'indirizzo di questo testa di mamma mia, garaglia. Dammi il fastidio, lo so. Tu pensa a me, casa, che c'è una cosa che ho desiderato sempre, domandando adesso, da un bel tempo, non me l'hanno mai comprato. Adesso che l'avevo trovato, io ho mandato Stefano se lo volevo, gli ho detto, vabbè, ci penso, lo so, che sai, mia moglie magari se non troppo grande l'apparecchio non lo vuole in casa. Invece poi gli ho chiesto, ma tu vabbè vedi se ci sta a fare come lui. E sulla cambiale l'aveva già venduto a mano. Poi l'ho visto quello che gli ha venduto a fare, ma è nuovo. Veloce a vendere lui. Molto veloce. Come se non me l'avrei venduta di sta, di sta l'avrei venduta a Mario, l'avrei venuta a faccia. Il 7411, eccetera, eccetera, qua non c'è niente. Beh, c'è sempre quella noi, guarda, 8 offerte, 5 giorni, ed è fermo a 26 euro. Allora c'è M308, questo è un signor micro. Bisogna vedere se esiste. Allora me bisogna se esiste, se è vero che è una loro, se non ti mandano un inter che ti dice gaggati da 30 euro. Se non ti butti di là direttamente. Non dare il scritto qua, no? Nonna, ma cosa faccio? Che faccio? E io sono un amplificatore lineare, ragazzi, poi un amplificatore lineare, diciamo, che c'è già dai. Ma se manco di quelli sinceri non ti fidi più, capito? Non lo sai, perché quando vedi la roba bella lucida è quella che ti fotti di più, perché sono la fiati che lo fanno, ti mettono una fotografia di un apparecchio nuovo, bello lucido. Come stanno facendo già, come ha detto Marco, capito? Ecco, mi ha detto Marco, cioè il problema è quello, che fanno le fotografie, stavo raccontando Marco stamattina, cioè che il suo, quel sul baracchino, che praticamente è come se l'abbiano buttato nella mondetta. Capito? È come se l'abbiamo buttato nella mondetta. Non lo so. Mi giovedì. Guarda questo è il Tovati, è il 2, aspetta, c'è lì con 10 watt in utilizza 4 transistor in configurazione principale SD in un va, di trovare il numero 2, ha fatto il buio lungo. Ma per questo lavoro 2630, pure a queste frequenze l'efficienza cala notevolmente, questo è veramente noi tutti i gaggiati. No? Cosa stavo dicendo? Avessi preso quello di Marco ma ne sa di più. Almeno questo apparato mi sarebbe rimasto. Beh, se prendi quello di Marco, che aspetta? Prendere quello di Marco avete una garanzia alla grande. O lui, se non so, oppure si è messo d'accordo con le realistiche, con quell'altro molto bello. E sono tutti di categoria superiore, con canali, SSB, una bella stazione base, e non hai niente da pentirti, Caspita, lui è un bellissimo, bellissimo apparato. Almeno eri sicuro che funzionava. Però questo, oramai è andata. Siamo uguali, non c'è niente da fare. Sì, non l'ho detto. In ogni caso io ne ho preso due, non una, in poco tempo. Infatti, tu ne hai pigliato due in poco tempo, noi ci hai pigliato tre immaginati, ma tre grosse però, tre grosse, 150, 250 e 150, fatti un gonzo già, si invece per 1300 meglio mentre curiamo un piano. Per carità, no, io questo qui se trovo un punto, anche che abbia i coperti un po' danneggiati, non me ne faccio nulla, praticamente ho questi di casa qua e sono da fuso, non penso. Ma se lo rispettiamo, i cosi, qua si dovrebbe trattare di roba nuova come te, soltanto di garanzia ufficiale, mai usata, e invece il numero del ubacco ma che esiste, che garanzia? Garanzia del pisello. Ma non è che non ce l'ha spedito ancora il pacco? Non c'entra niente già, ma io ho digitato con me tutto il numero e mi risponde eBay sulla categoria dei pacchi in ricerca che è il numero che io digito, è inesistente. E quel numero me l'ha dato lui, mica me l'ho inventato io. Aspetta, il numero anche il pacco è stato spedito, scusa, se non il numero come fa a vedere? Sì, ma lui ha preso una carta, la truffa è truffa, capito? Prendono un numero di spedizione qualsiasi, io vado alla CDA, prendo un numero di lettera di vettura e ti do quel numero di lettera di vettura, che è il numero della spedizione, e l'ho fatto corriere io. E ti telefono e dico, guarda, segnati questo numero di lettera di vettura, allora un foglio in bianco, non è stato spedito un accidente. Per carità, non ho detto che c'è gente in grado di costruirsi siti, di fare un po' di camuffi, capito? Sono gente di organizzazioni tutto di quelle a livello. Già, tu dico a voce bassa, ma non me la futura se mi intendi, eh? Stanno vendendo case su internet, mi ha detto questo mio amico, si fanno avere la caparra, si fanno accreditare i soldi in un conto e poi spariscono né casa né nuda di ladri. No, io non mi fido di lì, già mi fidavo un poco di me, io te l'avevo detto, io non è che mi fidi molto. Poi quando ho provato, perché la verità la persona mi ha detto, guarda, io ho sempre comprato, non ho mai ricevuto fregature, ho comprato molta roba pure, quindi ho continuato, mi è sempre andata bene, la verità. È in questo periodo che si è formata questa organizzazione bastarda. Infatti. è proprio vero, è proprio vero. Questo mi ha detto così, ma stanno fotografando ville intere, capito, case, boh, io ho capito, interne, esterne, palazzi, da fuori, da dentro, come cacchio fanno a fare le fotografie, non lo so, capito? E poi mettono su dei siti, mi ha detto, una signora della provincia di Cagliari addirittura che abita qua a Sassari, mi ha detto, ha versato 25.000 euro di caparra in 20 giorni doveva ricevere le chiavi di questa casa bruciata. Per carità. Oh, non dico questo a questi livelli è così oppure ma non so cosa dire, guarda, non so proprio cosa dire. Sono andati praticamente, ho detto posso pagare con la carta, si sono andati col piattino, gli ha messo la carta sul piattino, sono andati, hanno fatto tutto quanto, poi gli hanno ritirato roba di, mi hanno colato la carta e lui pensa che sia proprio lì perché lui la carta non l'ha finita, perché tra me l'ha portata col piattino e poi l'ha riportata indietro, capito? Certo che sì, me a Radio di Mario. È partita oggi, due offerte, 51 euro, 6 giorni manca. TSC 80, KSC 50 mega, 100 watt, al mod. Adesso vediamo com'è, che cosa si dice, e poi domani glielo dico, massimo la metto sui preferiti. Fabio, gli hanno pagato 1.500 euro, se ne sono andati in Spagna. A chi? Questo amico mio. Sì. Tanto a farsi la lista, capito? Chi spende in Spagna? Poi alla fine la banca li ha bloccati perché vedeva che mettevano 500 euro al giorno. Ovvio. Già lo credo. Vabbè. Porca miseria ladra. Io spero che non sia così. A me la lista, ma... Non c'è se mette, ma guarda, anche questo c'è la stella più grande di Negroni, per vecchi positivi 100%, utente del Canada, registrato militare professionale, guarda, questo internazionale di questo ci ha fatta, mi sono saputo giù, E segnala Rocca, che magari la polizia o la finanza può fare qualche cosa, magari si intromette un finanziere. Guarda, utente del 19 ottobre, Canada, registrato come venditore non professionale, guarda, questo è un venditore canadese, va, sta vendendo questa radio, cioè come ha fatto lui a entrare in possesso di questa radio? Guarda, c'ha la stella più grande di Negrovica. Ehi, come si ce l'aveva anche il mio? Sono a creano oro, capito? Sì, pure non è gialla, è rossa questa stella, tutta gururata. Ma bisogna segnalarmi subito, è un casino, non si vede pure che ci perde la credibilità perché si strutto le mani. È straordinario, è di gente che lavora, si vede. Già, è questo, c'è lo stesso simbolo. Non solo radio. Guarda, non solo radio. Visita il mio negozio. Il mio negozio è dei, guarda, non sono radio. Allora, è visto, è questo. È questo qua, guarda. Sì, gli stessi caratteri di scrittura, è questo. Guarda, base d'asta, centesimi euro, 15 euro. Preferisco, sì, è questo, guarda. Preferisco contattarti per telefono, il pagamento avverrà con bonifico bancario o vaglia telegrafico internazionale. È questo già. E segnala da questa discussione, non lo puoi segnalare. E dillo che sta cercando di fregare la sua gente, che si deve bloccare questa persona. Se non le butti un me. Aspetta, mi sto prendendo i dati, adesso sto entrando nel suo coso. guarda, adesso entro, è lui, è lo stesso carattere di scrittura, e poi praticamente chiede le stesse condizioni di pagamento che ha chiesto a me, guarda, preferisco un metodo di pagamento con bonifico bancario, virgola, o vaglia telegrafico internazionale, spese di spedizione 15 euro, come ha chiesto a me. Come ti dicevo di spedizione a tutti? Nicola con la grande, più 15. Ascolta, non è cosa vera. Stanno tutti tribulando lui. Cosa devo fare? Bisogna avvisare però alla finanza che cosa attenti su questo sito, se no non vai tra la casa lui, se non ce l'hanno loro. Entrare su lui e segnalare questo fatto qua. Potete farci vedere come potete includo una copia del manuale con tutti i fili elettrici. Questo trovato uno Shure qua. Con il microfono Shure 444 ho avuto rapporti di modulazione eccellenti, da parte di alcuni audiofili, autorizzato proprio il TS60. Chi ti vale un raio? Sto cercando, vado a rintracciare il... Madonna, guarda, registrato come venditore non professionale, clicchi sopra e ti dà inesistente, guarda. Oh, flashback by una ruota di gamio e poi è registrato come venditore, guarda, ti clicchi sopra, non professionale, e ti dice inesistente. Allora. È tutto creato in questo, capito? Quello che fa capire che non si può tutto quanto da solo. Infatti, siccome mi ha detto questo mio amico, ogni volta che tu vai e apri la pagina di dove c'è il pezzo che ti interessa, sulla sinistra c'è scritto informazioni sul venditore, tu li prendi e uno per uno te li controlli. Adesso io mi sono ricordato che questo, lo stesso, era così, capito? A me l'ha detto, punteggio di Freebeck 1118. Feedback positivi al 100%, utente dal 19 ottobre, Canada, registrato come venditore non professionale. Allora, tu vai a cliccare lì, mi ha detto, se non ti dà le caratteristiche del venditore, quello è un abusivo. Certo che sì. Lo so, tutto questo così adesso però... Addirittura c'era un sito, adesso che aveva chiesto perso anche Salvatore, che ti fanno la telefonata, per dire, tu vai, metti il numero e ti dice chi ti ha telefonato. Guarda, poi qua mi dice, luogo dove si trova l'oggetto, Sora, Frosinone. Come fa a trovarci a Frosinone se il venditore è un canadese? Perché l'organizzazione tra l'Italia e l'estero, capito? Qui si mi ha drufato, no, io ormai lo porto qua, questo mio amico glielo faccio vedere di persona, sta cosa. Adesso me lo metto sui preferiti questo, domani mattina, lei telefono, dico vieni a prendere il caffè un attimino a casa, con qualche tuo collega ti faccio vedere una cosa. Così lo fotografi, ti prendi i dati tu e mandi avanti tu la cosa, perché è impossibile, cazzo. Cioè come si fa? L'oggetto è a Frosinone e il venditore è canadese, ma cioè con 1118 problemi positivi. È tutto creato da loro, anche i siti si creano, i negozi, tutte queste cose qui, si creano il sito, per avere più credibilità, capito? E poi ti illuminano tutti con apparecchiature nuove, di modo che ti attirano. Ma è possibile che si chiama Usette Esmen, c'è scritto 1118, c'ha la stella rossa, bari uno sceriffo, 1118 per vecchi positivi, mica c'è un meme. Il mio si chiama Seller, vai a controllare quel che ne ha fatto. Come si chiama? Seller. Allora gemmettivimi, chi si chiama Esmen? Trasmen, eccellere, chi è canadese o mattesi? No, se non è inglese. perché praticamente in Inghilterra non vanno i russi. Ehi, guarda che la stessa cosa. È sempre la stessa organizzazione, perché i cosi sono così. Utente anile in Canada, guarda, registrato come venditore non professionale, clicchi e mi dà venditore sconosciuto. Quindi il sito è fasullo. Allora, per carità di Dio, la sua notizia. Che schifo già. Oh. Che schifo veramente. Adesso non esco perché qua mi sta prendendo anche male qua. Proprio, ma non ha tutti più nulla. Noi non sappiamo che ignorarlo, questo è basso, quindi no, sa, cosa aveva, succede. Allucinante, allucinante, va. No, va, adesso esco, lo spengo, non li voglio più vedere, va. Non li voglio più vedere, è proprio così, niente a fare. Sta pagato. Vabbè. No, e dimmi me lo. Io qui. Davvero si. Davvero si compra meglio. Allucinante questo. Allucinante. Dai, questa forse tagliere a me. Già. Fa finta che l'hai presa, fa finta che l'hai presa. Sembra che regaliamo soldi o caghiamo soldi già, scusa il termine, ma. Intanto qua, se non lo trovano cosa ci puoi fare, non è che ti va ammazzando. Cosa vuoi là? Io quello che posso fare lo faccio, vado alla polizia postale, vado alla finanza, almeno finita, qualche duro dovrà provvedere, tanto sono già sicuro che non me ne manda su. Mi voglio tentare a rispedirli, però lui ha detto che se non rispedisco non mi manda nulla. Capito, una base mala di Rabbidè. Comunque questo qui è un delinquente lo stesso, si capisce, anche se sa fare bene la farsa, è un attore, capito? Siamo anche capisciati. Non mi sono accorto, caro Gianni. Questo è proprio un grande figlio di puttana, altro che bar. E assieme a lui chissà quanti ce ne sono. E quanti la fregheranno ancora? Sono parole già veramente. No, bulacca, non le volevo. Sono io guarda, sono qui mi ho detto la cosa lì, non si è voluto dire nulla, però non avevo letto. Avevo letto qualche cosa, avevo aspettato anche di te. Adesso non sarà che anche a loro lo vogliono fregare. Tra me ho pensato, poi te lo dico perché ti vedevo bello entusiasta di farla fare, io ho detto magari non è così e lo demolisco, non devo solo più la fratella. Te l'avevi già immaginata tu che l'offerta era troppo vantaggiosa e che quindi potevo ottenere nello stesso tranello tuo? Ma io il tranello ancora non l'avevo ricevuto, lui ti dice che erano già finiti i soldi, però non avevo avuto la conferma, capito? È un bel casino, vabbè, non ci pensiamo più già, se no mi vieni ancora di più di giustino, dai, non è già notte meno 20, ci sentiamo domani, ok? Ciao, se no ti dormimo, prendi Borini che ti dormimo attaccato al microfono, ma non finì, ci sentiamo domani già, ti faccio sapere comunque. Questa è questa gente volendo così, già. Ehi, ti faccio sapere domani, vediamo se viene a trovarmi questo mio amico, così vi faccio sapere. Poi domani sera mi faccio un osservatore al limite, mi avvicino all'osservatore alle 3:30, se sei un po' prima, capito? Ma non ci sarà niente da fare con questo, ora mangio un pessimo. Io vi dico, sarà la prima e l'ultima volta, vi do tutto e ti conduco alla fronte. Non E vabbè, si piace il capito, non ti non fai nulla, capito? Non pensi che ti tu. E cosa fa? Non ha mai deciso. Stabili a lui. Cosa stai così? Va bene, dai. Ciao, ciao, buonanotte. Sentiamo la mano, ci aggiorniamo la mano. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.